llegando al límite. Y nadie es como Shude. Y trovo vecchie strade perse nei pensieri. Vedendo posti nuovi, continuo a insistere alla ricerca di frammenti tuoi nell'aria. Pensare dentro il tuo sapore forte sulla bocca. Una mano su me, tu di dolce. Yeah.